Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. www.archeologiavideoludica.net è il nostro sito di riferimento. allgamesitalia.net è il sito con il quale coproduciamo questa trasmissione. Io sono Simone Bizzi e questa è Archeologia Videoludica. Ok signori, puntata speciale, puntata del tutto natalizia. Infatti già il fatto che io sono a conduzione di questo episodio già lo dovrebbe dire lunga, in quanto insomma, come sapete, sono stati degli stravolgimenti, un po' di mal di gola, un po' di raggedine, forse la voce va un po' giù, ma chi se ne frega. Dicevo, puntata natalizia, una puntata diciamo molto easy, molto leggera, insomma più sull'insegna, ecco, per cogliere l'occasione per farci gli auguri, per stare un po' insieme, dire anche qualche cazzatina, anche se poi in realtà un tema questa puntata ce l'ha, che è appunto quello del Natale nella storia dei videogiochi. Ma andiamo a presentare i partecipanti a questa trasmissione. Ovviamente ci sono io, mi faccio la sottosigla giusto per... Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo star vino c'è... Questa fantastica sigletta che ovviamente Alex ha realizzato per me, pensando insomma a quello che gli veniva in mente, pensando al mio nome, evidentemente io sono l'uomo della pagliata. E abbiamo ovviamente... che l'abbiamo rinfilato nei dungeons un po' umidicci, nelle segrete stanze polverose, l'uomo che da sempre, insomma, per tradizione, ha portato conoscenza e cultura all'interno di questa trasmissione, che è professor Jones, Giuseppe Scaletta. Ciao Peppe! Natalizi, ciao a tutti quanti. Ma voi non fate caso a me, io vado, vengo, soprattutto, insomma, è il lavoro dell'archeologo. Tranquilli. E certo, tu quando sei in missione parti e poi ogni tanto ritorni. Abbiamo poi la Nemesi, quello che ovviamente è sempre stato l'avversario numero uno, il più importante avversario del professor Jones, che nella mitologia di Indiana Jones non c'entra un cazzo, ma è Marco Gualdi, il distruggitore. Ciao, ciao a tutti, ciao Peppe, tutto a posto questo Natale? Ti sta piacendo? Hai ricevuto tanti doni? Tantissimi, un po' umidi ma tantissimi. Tanti, sono contento per te, guarda. Beh, l'importante è che qualche dono l'hai ricevuto. Ma sono doni videoludici o sono doni... Ovviamente videoludici, guarda. Non so in quante vite reincarnandomi riuscirò a giocarli tutti, ma ci proviamo. Beh, se vuoi ti do una mano a rincarnare, se hai bisogno io. Te rincarno io, sì, tranquillo. Va bene, eccezionalmente, perché insomma non era previsto, ma stamattina si è svegliato presto e non sapeva cosa fare, è venuto a trovarci oramai quello che è la nuova colonna portante di Archeologia Videoludica, che è Alex Raccuglia. Ciao Alex! Buonasera, qui non c'è Alex Raccuglia, sono io, sono il mignottone. Ah già, è vero, mi sono scordato. Allora abbiamo fatto in segreto un concorso tra i nostri ascoltatori e chi vinceva il concorso avrebbe partecipato allo speciale natalizio, che è l'ha vinto ovviamente il famosissimo Erminio Ottone, ve lo ricorderete insomma. Uno dei nostri fan storici. Come sta, signor Erminio? Buonasera, sto benissimo, grazie. Io saluto particolarmente a Giuseppe Scaletta, che io sono suo fan, sono suo follower. Buonasera. Bene, sì, ricordo il following, ricordo perfettamente. Sono momenti importanti, che poi tra l'altro sia su Twitter che sì, perché ci sono altri social network, sennò seguivo altre parti. Buonasera. C'è pure Google Plus, se vuoi, lì almeno gli Google Plus non funziona, soltanto gente ubriaca. Buonasera. Ah sì, era il distruggitore questo, sì. Va bene. Ok. E presentalo per bene. Ah no, l'abbiamo presentato, sì. Scusa Marco, sei passato inosservato, stavo dormendo. Diciamo che allora a sto punto, vabbè, signor Erminio, insomma, Erminio Ottone, che ci è venuto a trovare, il suo momento di gloria ce l'ha avuto, insomma, lo possiamo anche liquidare. E lasciare il posto, insomma, un po' più competente e insomma decoroso Alex Raccuglia. Decoroso non lo so. Vabbè, se può essere, arrivederci, la prossima volta mi seguirò. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Okay, buon Natale. Proprio due persone differenti, esatto. Totalmente. Però devo dire che tutto sommato c'aveva una sua personalità Erminio Otto. Ma Suor Bethesda pure c'è da qualche parte, no? Se vuoi te la chiamo, la vuoi? È lì dietro che stava un po' facendo il catechismo Erminiottone. È brutta, eh? È delicata ma è brutta. Va bene. Allora, siccome che tutti dicono che quando conduco io questo episodio, questa trasmissione si dilunga tutto quanto in una maniera incredibile, a questo punto diciamo andiamo nel vivo di questa trasmissione, che sarà molto breve, molto easy, però parlerà insomma di regali di Natale, parlerà dei videogiochi, nella storia dei videogiochi, che cosa è uscito a Natale, che cosa di particolarmente rilevante avremmo potuto trovare, che ne so, sotto l'albero di Natale del 1986. Se ci fossimo svegliati dell'improvviso, siamo, oh cazzo, è l'83, che a Natale, il 25, esatto. Cosa ci avremmo potuto dare? Esatto. Ne so, chi può dirlo? E poi dopo ovviamente faremo anche alcune piccole riflessioni, perché per esempio io potrei domandare a Giuseppe Scaletta, anche detto professor Jones, qual è stato il professor Cons, eh? Qual è stato il tuo primo regalo a sfondo videoludico o consolistico o cassettino o cartuccio di Natale? Esatto. Non ho idea, non ricordo, la mia memoria è appannata, ho rimosso tutto. Suppongo che sia stato un bellissimo gioco per Commodore 16, così nella tristezza di quelle custodie. Avete presente le custodie delle in plastica, quelle che ovviamente non ci stavano nello scaffale, erano più grosse, e poi dentro c'era schiaffata la cassettina, sicuramente una di quelle, ma non ricordo. Ma era un gioco, proprio un gioco, o era un gioco da edicola, tipo che c'erano 60 giochi dentro a 3000 lire? Ma negozi a Palermo proprio si contavano sulle punte delle dita del piede. Penso che è più facile in edicola che le dita del piede di un hobbit. Di un hobbit che ho visto il film, bellissimo. 24-48. Gli hai fatto una domanda troppo tecnica. Troppo tecnico. Credo 24, perché c'erano problemi di flickering vari, eccetera. O il cinema era di merda, oppure. Ah, cinema dove buona sapersi. Io l'ho visto a 48. Vabbè, l'ha visto a 48 fotogrammi al secondo. Questo io l'ho visto a 48. Marco, tu invece che ti hanno regalato? Allora io, cioè nel senso il tuo primo, non che ti hanno regalato, il tuo primo regalo a carattere videoludico che ti ricordi? Natalizio, sì. Non mi ricordo, perché probabilmente era un Gauntlet dell'Atari, ma forse era il periodo di Natale, ma non ne sono neanche tanto convinto. Però il primo regalo sicuro videoludico natalizio me lo sono fatto da me, quando mi comprai il Nintendo 64. Però non è assessato, ho capito, ma io quello già avevi già 200 anni praticamente. Esatto, nel 64, nel 98, 99 c'era, lo comprai per prendermi Shadow of the Empire. Che tu conosci perfettamente, no? Star Wars Shadow of the Empire. Bella merda, fatto un po' lo esageriamo, però, fighissimo. Dai, solo voi lo potete dire, non lo conosco. Il gioco me lo sono giocato 40 volte. Era tanto per dire. Cioè, era così a sbafo, dici. Ma sì, voi lo dite. Ma tu dici, e tu ti piace la Tartaruga Ninja? Scusa. Sì, beh, in effetti, scusa Peppe, però stavolta ti sei un po' fucilato da solo. No, ogni tanto io ho belle merde gratuite. E Alex, tu invece il tuo primo regalo carattere videoludico, tuo a casa, insomma, di chi era? Credo che sia stato il Sega Master System. Mitico, Sega. Allora, vedi che tornerà. È vero. Tornerà utile ai fini di questa trasmissione, Alex Raccuglia. Sì, che tra l'altro è ancora funzionante. Dai. E allora toccherà fare qualche video, tipo un finto unboxing, queste cose così, insomma. E in realtà il box non credo di averlo più, però l'oggetto è funzionante. Se vuoi possiamo fare una serata io e il Paga, ci mettiamo qua a casa mia col videoproiettore e giochiamo a Space Harrier. Potrebbe essere una buona idea, e ci facciamo un bel video, perché insomma sappiamo che noi abbiamo il nostro canale YouTube, ma purtroppo non l'abbiamo poi più, cioè è soltanto un finto unboxing che ha fatto il distruggitore. No, era verissimo, l'avevo aperto, e poco altro, insomma, quindi va bene. Ok, invece il mio regalo di Natale, in realtà invece c'è, cioè nel senso, cosa, il Tennis for Two sicuramente? No, l'ho già raccontato, perché fu una cosa molto commovente, perché mi ricordo per Bradi Fazzoletti fazzoletti, ascoltatori di nuova allora metto generazione. Anche, metto anche apposita musicazione, perché io mi ricordo che c'erano queste pubblicità del Commodore 64 e del VIC 20 in televisione che le mettevano insieme. In realtà, quindi non sapevi se il 64 e il VIC 20 erano uguali o se il VIC 20 faceva le stesse cose del 64. E mi ricordo c'era questa pubblicità del gioco del calcio del 64, però presentato come se fosse il VIC 20. Allora io pensavo, ah, mi piacerebbe avere questo computer, ma quanto è bello questo computer. Però non mi sarei mai immaginato, insomma, che me l'avessero comprato. E a Natale, un Natale a un certo punto, non so, Natale 83-82, non ne ho manco la più pallida idea. Voi immaginatevi 82, piccolino, pizzi piccolino con la barba, no, che prendeva questo... Era pure magro, esatto. Era anche magro, era con la barba, con tanti capelli, perché quando ero piccolo c'avevo i boccoloni, c'avevo. Oddio, immagina questa scena, non oso immaginarlo ancora un secondo di immaginate me con i boccoloni, e con i boccoloni praticamente che è successo? È successo che a un certo punto arriva sta scatolona grossa, che potevano essere delle costruzioni, poteva essere qualsiasi cosa. Io comincio a scartare, il primo scarto vedo Commodore VIC 20, e per me era il non plus ultra, perché oddio il computer, capito una cosa? E comincio a piangere, sono scappato dalla stanza così. Poi siccome che mio padre gli era piaciuta tantissimo questa cosa, ha fatto rincartare il regalo, ha preso la telecamera e ha detto no adesso lo rifai come se fosse naturale una cosa del genere. In realtà ho fatto la stessa identica cosa, perché quando ho riscattato come se uno ci avesse avuto la memoria di 3 minuti, in pratica ero già dimenticato tutto. Ho riscattato, ho rivisto il Commodore VIC 20, sono messo a piangere e sono scappato. Vabbè, resettando la RAM è ovvio che ti scordi. Va bene, a questo punto entriamo molto tristemente nel Barnett College natalizio. Ok, Barnett College, dove praticamente abbiamo deciso di raccontare alcuni giochi, insomma, prendendo un periodo così storico un po' random, esatto, un po' a cazzo, insomma, diciamo così, dei giochi che avremmo potuto trovare nel passato sotto il nostro albero di Natale. Ovviamente la ricerca più importante l'ha fatta Giuseppe Scaletta, poi abbiamo anche Alex in studio, chiaramente, che gli darà un po' di supporto, e poi commenteremo, perché parecchi di questi giochi, insomma, sicuramente li abbiamo visti e giocati anche noi, soprattutto io che sono il più vecchio e nefasto, tristo, vetusto, più decrepito, vetusto e tristo uomo, insomma. Quindi vai, Peppe. Bene, bene, visto che come periodo di riferimento abbiamo preso quello in cui la stampa italiana, ecco, cominciava ad avere una sua forma. Nella fattispecie abbiamo cominciato a sfogliare le vecchie riviste in lingua italiana dalle quali abbiamo tratto ispirazione. E sapete che c'è? Ho saltato a pie pari l'epoca delle avventure testuali, con acuto e sommo dolore, dell'amico Capitano Pizzi. Tranne che per qualche sporadica e schifata prova, ma già in età quando gli 8 bit spaccavano, e quindi non me ne poteva fregare di meno ad avere la pazienza di stare dinanzi uno schermo nero con i caratteri bianchi o verdi e immaginare minuziose descrizioni di personaggi che non avrei mai visto, tranne che nei meandri della mia mente. Quindi sti cazzi, ma siccome sono buono, tra i vari giochi pubblicizzati in quel dato momento, come The Sentinel, The Pawn, Balderdash Construction Kit, per il 1986 ho voluto far finta che sotto l'albero in molti aspettassero questo Leather Goddesses of Phobos, un'avventura testuale di grande respiro fantascientifico. Cioè, ossia te lo sei inventato tu in pratica sta cosa? No, esiste, no. È meraviglioso, un capolavoro. Come? Ma cioè, daremo pure i link a fine intervento. Ma, quindi Peppe, sintonizzati. Scusa, pronunzia la traduzione in italiano del gioco, del titolo del gioco. Sì, le dee in pelle di Phobos. Bellissimo. La dea. No, sono dee. No, goddesses, sono tante. Ah, goddesses, lei. L'inglese arrugginito. È una... Ma no, davvero, l'uomo che ha corretto tutti, veramente mi casca sul plurale. Ma io non stavo leggendo ciò che... Io stavo facendo in base a quello che ho capito da quello che ha detto io Peppe. In italiano leggerei Leather Goddesses of Phobos. Of Phobos, anzi, diciamo così. Ma che gioco è? È un'avventura testuale di grande respiro fantascientifico, con alcune peculiarità non male. È uscito per tutte le maggiori piattaforme dell'epoca. Ma Simone, tu che sei l'uomo colto, la nostra enciclopedia vivente, ehi, cos'è Phobos? Phobos? Ah, è della Infocom sto gioco, quindi è... Che cos'è Phobos? Che è Phobos? Che ne so io? È una delle due lune di Marte, Phobos e Deimos. Ah, vedi la cultura, hai capito? Bravo, quante ne sai? Bravo, bravo. Phobos è una delle due lune di Marte. Segnatevelo. Sì, io se avessi due figli maschi li chiamerei Phobos e Deimos. Sarebbero proprio cattivissimi. Beh, vabbè, Deimos pure, ma Phobos no, dai, cioè Phobos è da proprio uno spaventato. C'ho il Phobos. Sì, significa paura. Certo, grazie. Paura e terrore. Fino là ci arriviamo, giusto? Vabbè, dopo che hai dato questa sprezzante e disprezzabile segno della tua cultura, andiamo avanti. Il gioco esce nel luglio dell'86, ma chissà perché finisce sotto i riflettori nelle riviste del periodo natalizio. È opera di Infocom, come giustamente detto, famosa per essere specializzata nel genere sopramenzionato, vedasi Zorko in tutte le sue incarnazioni. E la trama è la seguente. Siamo nel 1936 e le dee in pelle di Phobos stanno pianificando gli ultimi dettagli prima dell'invasione della Terra. Siamo rapiti da queste tipe per essere sottoposti all'ultimo test prima dell'esecuzione del piano che costringerà in schiavitù tutta l'umanità. A meno che questo piano scellerato non sia fermato, la Terra sarà trasformata nel covo del piacere di queste roventi aliene, cosa considerata negativa nonostante le possibili motivazioni personali del giocatore. E già, qua tiriamo male. In pratica, come tradizione nelle avventure testuali, bisogna raccogliere un certo numero di oggetti, 8 in questo caso, per portare il gioco a termine e vi rimando. No, ma anche a termini, così arriva fino a Roma. Anche a termini merese, arriva sì, alla stazione. Notate che qui potete andare a ripescarvi il bellissimo speciale 03 sulle avventure testuali con la partecipazione del mitico Bonaventura Di Bello. Il gioco non si avvale di una protezione contro la copia di tipo software, ma come tanti prodotti dell'epoca fa del contenuto aggiuntivo della confezione la sua protezione. Infatti, una serie di puzzle all'interno del gioco sono impossibili da risolvere senza l'utilizzo di alcuni oggetti, chiamati in inglese fillies, contenuti nella scatola. Nella fattispecie per questo gioco abbiamo una piccola carta da sniffare, con 7 aree numerate da grattare che avrebbero emesso ciascuno un odore specifico nel momento in cui veniva chiesto dalla storia. Poi un albo di fumetti in 3D, colmo di indizi per risolvere il gioco, occhialetti 3D per la visione del fumetto e una mappa bifacciale delle catacombe. Mazza quanto roba. Tutto ciò portò il gioco a vincere un premio. Scusa, per Beppe, l'eccellenza del packaging. Beppe. No, dico, ma in realtà non è un'avventura testuale classica, cioè è un'avventura grafica, no, però della Infocom. Perché io vedo che è grafica, perché se c'è, no, il testo è prevalentemente gestito tramite testo. C'è la grafica, guarda le schermate collegate, cioè, senso, è tutto testo. E io vedo un sacco di fumetto, forse. Guarda lì che vedo un sacco di gnocca, proprio gli screenshot. No, quello è il 2, tu stai guardando il 2. Ah, io sto guardando il 2, che invece io pure il 2 diventa grafico. Non darti in inganno, il primo. Ah, ecco, vedi, quante ne sappiamo, vai. Tanto io mi guardo il 2, che è più interessante. Tutto ciò portò il gioco a vincere un premio per l'eccellenza del packaging l'anno successivo, nell'87. Il gioco presentava più livelli di difficoltà, dal tame, adatto alle famiglie, al suggestive, quello di default, fino al lewd, lascivo, scena, cioè, con riferimenti espliciti. E per farvi un esempio del tipo di contenuti, in una scena il gioco costringe a scegliere dove andare ad urinare. Andando nel bagno degli uomini, il software intuisce che il giocatore è uomo. Andando nella toilette per donna, si set il gioco per un giocatore femminile. Da quel momento, nel modo di gioco lascivo, vengono proposte alcune situazioni scottanti con personaggi del sesso opposto. A proposito, è proprio nel bagno che si gratta la prima casellina degli odori. Per fortuna si tratta solo della puzza di pizza lercia del giorno precedente, non odori più sconvenienti, vista l'ambientazione, tipo la cacca. Poi, in un'altra scena, si entra ad esempio in un harem e si può arrivare ad interagire personalmente con i personaggi, appunto causando una descrizione molto dettagliata di ciò che accade. Un'altra curiosità, nel gioco era previsto un boss key, un panic button, cioè un bottone che faceva apparire un foglio di calcolo all'occorrenza quando premuto, qualora beccati dal proprio capo al lavoro o dai genitori. Sta studiando, mamma, non la vedi? E quindi questa era una piccola curiosità. E direi di chiudere con questo gioco bellissimo. Tra l'altro, il 2 è stato tradotto anche in spagnolo, quindi probabilmente c'è anche una versione italiana, insomma. Chi può dire? Ma Alex lo ricorda questo gioco, è vero. Allora, devo dirti che Questo il numero di zap che è stato citato nelle nostre note interne, credo che sia stato il primo numero di zap che io abbia mai posseduto. Mito. Per cui per io quello del Natale 86. Esatto, 86. Per cui io credo di essermelo imparato a memoria. Non ho giocato praticamente a nulla tranne che a Trailblazer, che secondo me è uno dei giochi più belli della storia dei videogiochi, ma questo me lo tengo per me, anche se ve l'ho appena detto. Però appunto mi ricordavo questo titolo assurdo, cioè Leather Goddesses of Phobos, cioè, ma chi cazzo, sembrava quasi il titolo di un disco jazz, tanto era stupido come cosa, per cui sì sì, in effetti il titolo è abbastanza però non ci ho mai giocato, anche perché non... Ma diamo la gioia a te Alex, a tutti i nostri auscultatori, di andarvelo a scaricare, perché a quanto pare è Abandonware, quindi c'è un link nelle note dell'episodio. Ma è uno o il due? Dell'1. Non so se c'è anche il 2. Basta fare una piccola ricerca. In più, vabbè, poi lo metteremo nelle note dell'episodio. Come ti avevo, segnalato su Facebook, carissimo Simone, c'è una bellissima applicazione uscita proprio da giorni. È uscita il 20 dicembre. Che si chiama Lost Treasures of Infocom. Calma, il sangue freddo. Che raccoglie Zork, tutti i vari Zork, tante avventure testuali, fra cui anche questo bellissimo gioco Leather Goddesses of Phobos, quindi potrete rigiocarlo anche naturalmente su in russo, iOS. In cirillico. No, in inglese. Ci sono tutti i filis, ci sono le mappe, i fumè, c'è tutto praticamente. Bello. Allora, io guarda, ne approfitto un attimo per dire, innanzitutto per ricordare come hai fatto tu lo speciale sulle avventure grafiche dove abbiamo intervistato avventure testuali, scusa, dove abbiamo intervistato Bonaventura Di Bello, andatevelo a risentire perché veramente è interessante e anche lì si racconta un bel pezzo di storia. Ne approfitto anche per dire, e questo poi lo diremo anche nel prossimo episodio, che su All Games Italia è partita un lavoro di traduzione del primo Zork, quindi tutto tutto il kernel, tutta quanta la parte testuale, roba del genere. Se entrate nel forum di allgamesitalia.net potete anche dare una mano al lavoro di traduzione, perché stanno veramente facendo un grandissimo lavoro e sarebbe bello rigiocarlo Zork tutto in italiano, che è un sogno che mi portavo da ragazzino. Dicevo, ma perché non li traducono in italiano? Perché credo che sia difficilissimo, anche perché adattare le varie combinazioni fra verbi e... È un lavoraccio, devo dire la verità che è un lavoraccio. Poi insomma le avventure della Infocom non erano programmate a cazzarella. E a proposito di speciali, comunque vi ricordo, e poi lo ricorderemo anche a fine puntata, che la prossima puntata, puntata di gennaio, sarà uno specialone sull'editoria videoludica dell'Alba dei Tempi. Insomma una puntata alla quale stanno lavorando Roberto e Alex, insomma anche con l'aiuto del grande Paganini. Insomma sarà veramente un puntatone, non ve lo perdete. E andiamo avanti, Peppe. Bene, sulle riviste si parla ancora di Atari VCS ed XE, di Nebulus e anche di un fantomatico Star Trek per Atari ST, ma noi ci riagganciamo in qualche modo al gioco del Natale precedente. Ecco l'evoluzione della specie nell'87. Il giocone Maniac Mansion. E qua c'è un minuto di silenzio qua, perché applausi e prima infatti applausi e poi silenzio. Lo possiamo anche giustificare con il lag, un minuto di silenzio. Tranquillamente. È vero, eh? Maniac Mansion è sì un'avventura, ma grafica, un gioco destinato a divenire una pietra miliare, capostipite del genere. Opera della Lucasfilm Games, designers sono Ron Gilbert e Gary Winnick, gli stessi che poi daranno i Natali, bella battuta, Natali, a Zack McCracken, il segreto di Monkey Island, il giorno del tentacolo, eccetera. Inizialmente rilasciato nell'ottobre 1987 per Commodore 64 ed Apple II, è poi portato anche su PC, Amiga, Atari ST e pure NES, versione tra l'altro che io possedevo allegramente. La trama racconta del teenager Dave Miller e della sua fidanzata cheerleader Sandy, quest'ultima rapita dal pazzo Dr. Fred che succhia cervelli umani incoraggiato dalla sua pazza famiglia. Questo dopo che 20 anni prima un meteorite senziente cadde da quelle parti trasformando la vita degli abitanti della dimora, la mansion appunto del titolo. Il gioco inizia con la selezione dei due personaggi fra sei che accompagneranno Dave nella sua avventura a base di scienziati pazzi e tentacoli antropomorfi. L'avete giocato tutti, penso, no? No, vabbè, la cosa bella, a parte che ovviamente quando arriveremo a Lucas faremo sicuramente almeno un paio di speciali, perché con LucasArts, Lucasfilm Games e Maniac Mansion si introducono veramente proprio tutto un modo di fare videogiochi, perché non solo è stata la prima avventura grafica con lo SCUM, diciamo, quasi evoluto, diciamo, sotto certi aspetti, quindi quella specie di interfaccia che Ron Gilbert e compagnia bella hanno insomma sviluppato, ma era pure particolare perché c'erano vari personaggi, tu potevi decidere con quali personaggi giocare e c'erano anche delle varie combinazioni che cambiavano l'avventura stessa, anche se, se non ricordo male, però forse magari voi mi potete aiutare, credo che c'era anche una specie di grosso bug che se tu, siccome era temporizzata l'avventura, se tu non facevi determinate cose non la potevi più finire. Infatti è stata l'unica avventura, Luca, se io non sono mai riuscito a comunque grande, grande gioco. E quello là, se me l'avessero messo sotto l'albero di Natale, probabilmente lì per lì al volo non l'avrei capita, però poi dopo l'avrei apprezzata negli anni. Esatto, anche se sto vedendo la versione Star Trek di Natale 2006 da te, prima, è veramente una cagata, no, è bellissimo. Bello, dai, quasi, quasi come l'ultimo film di J.J. Abrams. Devo dire la verità che poi alla forse fine è meglio. Rispetto a poi dei colori, attenzione, lens flares anche qui nel videogioco. È vero, è vero, è vero. No, quella era la curvatura. La curvatura. Vabbè, Alex, tu no, vabbè, Maniac Mansion purtroppo non l'ho giocato, ma non avevo il Commodore 64 o altri strumenti atti alla cosa. Non so se l'avrei apprezzato perché non è proprio il mio genere, però mi rendo conto di essere davanti al padre di quello che è venuto dopo, per cui cioè, tanto di cappello e inchino, proskinesis. Ma infatti maggiore caratteristica del gioco a livello tecnico, senza entrare nei dettagli, giustamente come dice Simone, perché avremmo opportunità in una puntata specifica per studiare e parlare dell'argomento, è la presenza di questo scum che nasce proprio in questo gioco. Questa interfaccia fu concepita come alternativa per semplificare il parser basato sull'immissione del testo che era solito usarsi nelle avventure, anche quelle grafiche addirittura. Io questo particolare non lo ricordavo, poi ho ricollegato che c'erano anche avventure grafiche con l'immissione del testo. In definitiva, con il mouse si sceglievano dei verbi da un menu presente nella parte inferiore dello schermo per poi combinarli col click di un oggetto nella parte superiore grafica dello scenario, cosa che a noi oggi appare abbastanza banale e scontata, ma pensiamo che prima da allora non era affatto così. Poi da lì si sarebbero sostituiti i verbi scritti con icone e via facendo. Maniac Mansion fu un gioco così bello. Poi ricordiamo anche, scusa se ti interrompo, che in realtà la novità fu proprio questa caratteristica dell'interfaccia dei giochi della Lucas, perché in realtà la Sierra faceva ancora i giochi con l'interfaccia grafica, ossia praticamente tu c'avevi il pupazzetto, lo dovevi muovere, lo dovevi mettere davanti all'oggetto, roba del genere, ma i comandi ancora erano digitali tramite parser, quindi cioè nel senso c'era ancora la concezione dell'avventura testuale. Io non lo ricordavo questo particolare, poi ci ho riflettuto sopra. Dicevo, questo fu un gioco così bello sotto tutti gli aspetti che fu acclamato, appassionò per le citazioni da B-movie dell'orrore ai quali era ispirato, generò addirittura una serie di cartoni in 3 stagioni e 66 episodi, mise le basi per l'ottimo Day of the Tentacle, che era una sorta di continuo spirituale. Infatti salutiamo a tal proposito Davide del podcast del Tentacolo, del circuito Outcast, che ascolto sempre volentieri. Ma sempre pubblicità gratuita a tutti. Scusa se ti interrompo, ma vuol dire allora che Zach McCracken è il terzo? È il secondo, è dopo, viene dopo. Cioè, scusa, Dave the Tentacle. È quello animato. Sì. Cioè, prima c'è Maniac Mansion, poi c'è Zach McCracken e dopo viene. In ordine, sì. Ok. Sì, sì. Ho avuto un attimo di crisi, scusate. Di crisi. Curiosità sulla protezione. Poi, però, Zach McCracken non è collegato comunque alla timeline. Non so giochi collegati, Maniac Mansion. No. Sono giochi collegati, invece Maniac Mansion e Day of the Tentacle, che ovviamente poi la riprende proprio a Parigi. In realtà la storia è quella. Esatto, pure perché i personaggi sono i stessi, insomma, sostanzialmente. Diamo una curiosità sulla protezione antipirateria. Le versioni PC, Amiga ed Atari ST contenevano un codice scritto in rosso scuro su un foglio marrone, che poteva leggersi sovrapponendo lo speciale foglio di cellophane incluso nella confezione, e andava digitato all'interno del gioco per aprire una stanza specifica. Su Commodore 64 ed Apple non fu possibile includere tale protezione per via della memoria limitata sul disco, optando per una più classica protezione software. La versione NES, quella che giocai anche io, fu censurata per via delle direttive Nintendo per la salvaguardia della morale familiare, fu pubblicata da Yaleco nel 1990. Personalmente, non sapevo neanche che c'era una versione console della Eh sì, questa del NES ce l'avevo, sì, l'ho giocata. Era modificata ovviamente in base alle direttive Nintendo, perché doveva essere un gioco lindo e privo di di cazzi e mazzi. Questo gioco l'ho giocato, lo conosco, come dicevo, ma mi piace leggere le descrizioni sulle riviste dell'epoca. Ad esempio la definizione di avventura dinamica. È vero. Secondo voi per quale motivo, infatti? Oppure la descrizione del sistema di comando incredibilmente facile ed insolito sistema di menu, riferendosi allo SCUM. Quindi riflettiamo un attimino sulla novità introdotta da questo gioco. Bello, su Zap si beccò un 93%. No, vabbè, ma comunque è capolavoro assoluto. Cioè, a parte l'ironia, no? Che poi in realtà diede il via proprio a quel filone che portò poi a Monkey Island, no? Il problema di Lucas, anzi, il vantaggio di Lucas è che c'aveva delle scritture, cioè nel senso c'era gente che sapeva scrivere, questo ha fatto la differenza. Ma io direi di andare avanti comunque, che grande capolavoro, basta, poi tanto ne parleremo. Tu, Marco, ovviamente il suo gioco non sei no, assolutamente niente, che no, proprio, niente. Sei proprio che non no, si no, spara, no. Non si uccide, quindi no, a lui no. Era bello inserire questa ventata di avventura grafica. No, hai fatto bene, io sia regali, per me pezzi. Amore condizionato sempre vita natural durante sempre. Ma guardo su Zap, un attimo, perché mi perdo. Cioè, la pagina precedente, quell'anno è uscito il SEUC, il Shoot'em Up Construction Kit. Forte. Cioè, ragazzi, qui mi sono quasi bagnato, ragazzi. Link. È la pagina precedente. Ma non so dove sei, perché io non so dove sei. Perché tu non sfoglio, caghi. Su Zap. Tu non caghi. C'è Oggi che fornisce Link. Hai ragione, va bene. Simone è un comunicatore, non è che deve capire le cose che comunica. Non deve leggere, esatto. Lui comunica senza leggere. Io sì, Simone incarna gli anni 2000, gli anni 2010 proprio in persona, nel senso le cose non si fanno, si raccontano senza viverle. Bravo. No, io l'ho vissute, ma non me le ricordo, è quello diverso. Che è la stessa cosa, poi fondamentalmente. Lui è Homo Volant. Ma vogliamo passare anche al terzo gioco, magari? Verba che vola. Sì, perché è una certa, comincia a aver fame. Ma passiamo a Natale successivo, dai. Dai. Tra le varie pubblicità delle riviste dell'epoca, nella fattispecie il numero 29 di Zap, a proposito appunto, tutti i link alle riviste sfogliate sono trattate dall'iniziativa Old Max di Old Games Italia, quindi li trovate nelle note, si potevano ammirare sgargianti pagine dedicate a R-Type, a Robocop e poi a diversi giochi sportivi. Il gioco che hai messo. Vorrei farvi notare che questo numero di Zap, cioè la mia prima lettera a un giornale di videogiochi. Ma dai! E come ti sei firmato? Perché gli scrive? Involontariamente sei passato alla storia proprio. Esatto, io ero The Alex. No, esatto. Non eri Erminiottone? No, allora non esisteva ancora. Erminiottone era troppo lontano dalla sua cultura. Ancora non esisteva questa cosa. Una di quelle cose blasfeme che ho scritto a pagina 12. Ma leggi, cioè, la leggi, la leggi, leggi, dai. No, aspetta, ce la teniamo leggi. Dopo per il Barnett, per il Mele Island. Dai, la posta, leggiamo la posta che ha scritto di Alex. Quant'è, 20 anni la posta fa? Dell'80. Bello, scriveva Alex. Dai. Bravo, ottimo. Vai a morire, ragazzi. Andiamo al 1988, quindi dicevamo. Ora, partendo dal fatto che ho sempre bistrattato i giochi di calcio, passando per fasi alterne di curiosità, è vero, e si vede anche per quello che hai scelto, insomma, però vabbè. No, non è vero. Ho deciso che sotto gli alberi di Natale dell'88 dovevano starci un bel po' di copie di Microprose Soccer, perché effettivamente ne è giunta l'eco ai nostri giorni fra i gioconi di calcio del passato, e della sua pubblicità ne erano piene le riviste in quel Natale. Precursore del grande classico a 16 bit Sensible Soccer, l'originale fu... Guarda, ti stai scatenando le ire, le bestemmie di milioni di fan, perché... No, è il primo, no? No, è vero che è il primo, ma non il precursore di Sensible Soccer. Ricordate che prima è uscito Kickoff, che ancora oggi, insomma, Sensible e Kickoff sono come i buddhisti con gli induisti. No, Kickoff è uscito dopo. Non lo so. Kickoff è uscito dopo di Sensible, di Microprose Soccer. No, di Microprose Soccer, sì, ma... Dicevo, l'originale... Microprose Soccer fu pubblicato nel 1988 da Microprose per Commodore 64 e sviluppato appunto da Sensible Software, rilasciato negli Stati Uniti come Kate Van Aaron's Pro Soccer. Nel gioco è possibile disputare amichevoli, un torneo o un campionato di gioco ad 11 o partite di calcetto 6 contro 6. Sfoggiando una fantastica visuale dall'alto, il sistema di controllo fu disegnato per essere il più semplice possibile. Un tocco rapido del bottone del joystick per passare la palla, una pressione prolungata per fare pallonetto, fuoco e indietro per una rovesciata, fuoco e avanti per un tiro potente. E peculiare fu il tiro a banana. muovendo il joystick in diagonale dopo il tiro si poteva imprimere un effetto alla palla, caratteristica poi infatti ripresa dal rivale Kickoff, che implementò lo stesso aftertouch. Insomma, non so dirvi molto di questo gioco perché fa parte di un'altra generazione, non puoi dire che è rivale. Comunque è vero, cioè si segnava sempre col tiro a banana. Sì, ma perché dici che Kickoff fa parte di un'altra generazione? È vero che non ne so niente di giochi di calcio. Perché Kickoff è arrivato con l'Amiga. Perché era già epoca Amiga. Hai ragione, esatto. Hai visto che non capisco un cazzo. Però insomma hanno copiato l'aftertouch. Basta, non c'è. Vabbè, sti cazzi, adesso possiamo anche andare avanti. Sti cazzi anche. No, ma i cultori dei giochi di calcio. Cioè, io ho vissuto la mia infanzia fra amici che non vedevano altro che, o quasi, che i giochi di calcio. Quindi li avevano tutti, li giocavano tutti, facevamo grandissimi tornei. A me non poteva fregare una cippa. Te li mettevano a giocare dietro lo schermo, vero? Questo mio trauma infantile, fatemelo rivivere così, bistrattandoli un pochettino questi giochi. Però guardate un po' il video che ho linkato, carissimi ascoltatori. Guardiamo. Nelle note si intuisce una certa cura anche nei menu, nelle musiche d'intermezzo, nella riproduzione delle condizioni climatiche. C'è addirittura il replay con effetto riavvolgimento del nastro in bianco e nero, il moviolone, e tanta giocabilità e fluidità di questo gioco, che presumo questo sia il motivo principale che ne decretò il successo all'epoca. Non so, non mi ricordo se fu il primo con visuale dall'alto, perché non so se fu il primo. Ricordo quei giochi con visuale a volo d'uccello, quella isometrica. Ok, vabbè, Micro Pro Soccer. Per Commodore 64 io ci ho giocato veramente tanto. E poi era figo perché c'era tante piccole cosette, c'erano le squadre, le formazioni, le sostituzioni, i giocatori si affaticavano, roba del genere, c'era il tiro a banana, come giustamente ha ricordato anche Peppe, che era fantastico perché in realtà ti permetteva da determinate posizioni, cosa che è successa in tantissimi altri giochi di calcio successivamente o nel passato, di segnare da una determinata posizione, perché c'era sto quello tiro... sì che era calcio realistico, esatto. FIFA 13, non Pro Evolution Soccer 50.000. anche quello se era mi fa strano che lui abbia messo questo gioco invece che il famoso International Soccer di Andrew Spencer, quello insomma tradizionale classico del Commodore 64, che quello sì che io me lo so trovato sotto l'albero di Natale e anche lì ho pianto. Ma erano contemporanei? No, secondo me è meglio. Io ho preso un gioco a caso del Natale 88. Ma sì, hai fatto bene, io passerei anche al Natale dell'89 se per questo. Ma sì, anche perché questo gioco proprio che viene fantastico. Le prime pagine pubblicitarie del numero di dicembre 89 di TGM, del TGM italiano, erano dedicate a Space Ace, tanto per ricordarci del Don Blatt della puntata scorsa, 3-0. Lacrime napoletane, porco zio! Turbo Outrun. No, per la serie Belli e Sconosciuti, ecco invece un gioco il cui nome al giorno d'oggi non ci dice nulla, ma che all'epoca fu acclamato, insomma fu sottolineato. Onslaught, o come Onslaught si voglia dire, non ho idea. È Onslaught. Come? Onslaught. Ma Onslaught. Ma mai sentito? Proprio, cioè. Interessante riconoscere un fenomeno del genere e porci gli interrogativi. Soprattutto del caso. Porci. Era davvero questo gran bel gioco? Perché non è rimasta traccia oggigiorno? Per quale motivo? Non abbiamo rilasciato video. Inizialmente nel corso del 1989 su Amiga e successivamente su Atari ST, PC e Mega Drive addirittura, si tratta di un picchiaduro articolato in tre distinte fasi. La selezione del territorio da attaccare in una mappa, la fase di scontro a scorrimento orizzontale per conquistare il castello e la fase finale in cui si affronta il boss, il mago del castello, una volta sconfitto il quale si passa alla selezione di un nuovo territorio e così via. La trama che sta alla base è semplicissima. La terra di Gargor è in preda al caos a causa di guerre intestine e un guerriero solitario è in grado di rimettere le cose a posto. Questo fa parte della cassa dei Fanatic, guerrieri magici della forza di un'intera armata, ed è stato scelto dal dio Kruger. Si parte armati di una sola mazza per poi raccogliere armi come palle di fuoco, bombe a mano, scudi protettivi. Notate che mazza e palle si sprecano in maniera fantastica. La cosa che mi ha attratto nella scelta di questo gioco è stata la risposta dei media, perché un bel 95% da parte di The Games Machine, 85% da Zap, e poi scendere 54% per Your Amiga e via scendendo in altre riviste. È un mistero del marketing, forse c'è questi pareri discordanti. Era meno un mistero il fatto che avesse una grafica per l'epoca davvero notevole, e forse questo inconfutabile aspetto ne decretò il successo su alcune testate, almeno momentaneo. Leggiamo infatti un paragrafetto di TGM del dicembre 1989 a tal proposito, dice: Onslaught è uno stupendo gioco di violenza digitale, potete squartare, sezionare e spappolare i nemici. Sebbene può sembrare un po' difficile all'inizio, ma con un po' più di forza nello schiacciare il pulsante di fuoco del vostro joystick sentirete l'adrenalina scorrere mentre il personaggio sullo schermo fa gli avversari a pezzettini. Poi ancora, che bello! Bello, eh? No, graficamente il gioco è un piccolo capolavoro, gli sprites sono definiti in modo stupendo, i fondali dettagliatissimi, la grafica dell'ST è sfruttata benissimo, il sonoro è veramente bello, dovreste sentire il rumore dei piccoli cannoni dei nemici, senza parlare dell'animazione. Pensate che quando i cannoni sparano i guerrieri nelle vicinanze si mettono le dita nelle orecchie. Sicuramente il migliore del suo genere. E voi lo conoscevate questo gioco? Assolutamente, proprio... assolutamente no. Ma non soltanto non lo conoscevamo, come poi ovviamente probabilmente diranno, insomma, nelle interviste, nello speciale della prossima puntata, molte volte scrivono tante cose pure a cazzo. Però posso dire una cosa, fantastico, questo gioco non solo non lo conosco, non sono neanche andato a vedere le immagini, ma in realtà ci sono tre sistemi per 999 possibilità di giocarsi un Natale alla grande. A voi la scelta vincente. Ci abbiamo un Atari 2006 a 99.000 lire. Oppure, se volete, abbiamo un Atari XE System a nel TGM 320.000 lire, esatto. Oppure a 790.000 lire ci abbiamo addirittura un Atari 520 STFM. Insomma, ragazzi, queste sono le offerte da Atari che io direi che per Natale dobbiamo assolutamente cogliere. Sfruttare e cogliere al volo, sì, assolutamente. Alex. Allora, io mi ricordavo il titolo, perché questa è stata l'epoca d'oro in cui fondamentalmente per me TGM era una sorta di Bibbia apocrifa. Però ora a riguardarlo devo dire che certi aspetti della grafica erano molto carini. Ovviamente sono retro, però considerate il fatto che si veniva dalla generazione 8-bit, la generazione Commodore 64, per cui l'Atari ST comunque, anche con questa grafica che oggi dichiareremo spartana, era talmente stratosferico per cui tutti dicono: ah, figata, il futuro di qui, il futuro di là. Io non ho mai capito l'Atari ST, nel senso, forse perché è stato il computer più lontano, più sconosciuto e più irraggiungibile. Vedevo sempre queste recensioni con Atari ST, e non capivo perché esistesse proprio l'Atari ST, perché c'era l'Amiga contemporaneamente. Beh, guarda, fino a che non c'era l'Amiga era, cioè, spaccava, cioè, nel senso, era comunque una bella macchinetta. Poi è chiaro che il raffronto era tra PC, che ancora non c'aveva il parallasse, l'Amiga che spaccava l'uccelletti, e l'Atari ST. È chiaro che probabilmente poi l'Atari ha cominciato ad andare verso un declino, però mi ricordo c'era un periodo che anche a livello di numero di colori, insomma, era una bella macchina. Cioè, io vado molto a memoria, perché mi ricordo questa cosa delle recensioni, insomma, quindi... Però, insomma... E diciamo che se l'Atari ST fosse venuto un anno prima, probabilmente oggi non staremmo parlando di Amiga, perché tutti sarebbero passati all'Atari ST e l'Amiga sarebbe stato, sì, la cosa migliore, però che nessuno si è cagato perché saranno già tutti comprati l'Atari. Però l'Amiga c'aveva con sé l'eco del 64, non so se a livello di pubblicità poteva competere con Atari. Beh, ma non lo so, perché considera che la PlayStation ha spaccato tutto quando fondamentalmente l'anno prima non esisteva una struttura Sony che facesse gioco, vero, per cui se c'era la grande rivoluzione fondamentalmente la gente saltava sul carrozzone, cioè, se viva l'Atari. Mentre oggi siamo qua a parlare dell'Amiga, l'Atari è soltanto un ricordo per chi faceva musica. Era Atari che non era comunque più l'Atari, insomma, che aveva straspopolato. Erano sistemi. No, stava scivolando nella fossa. Commodore invece in realtà, secondo me, ha acquisito una bella fetta di mercato. Oramai c'era fatta anche la sua bella credibilità. Quindi, sai, un po' particolare come discorso, ma sicuramente poi alla fine anche su questo prima o poi arriveremo a parlarne. In realtà i computer dell'Atari sono a me abbastanza ignoti, perché è proprio un tipo di sistemi che io non ho mai visto, proprio mai visto in, in azione, quindi non, a parte Natale 2006, che poi ovviamente non è un computer. Io direi di andare al, al Natale del 1990, giusto? Oh, finalmente un po' di console, finalmente. Finalmente. Giocone, allora, questo. Non c'era una rivista nel 1990 che in Italia fosse interamente dedicata ai giochi per console. E chissà perché. Ma nello speciale K del maggio 1991, link nelle note, si fa una bella retrospettiva a tema, dove alcuni dei gioconi trattati sono Wonder Boy 3 per la Miraglia Sega, DuckTales su NES, F-Zero per il neonato Super Famicom. Gioconi, gioconi, gioconi tutti. E poi c'è lui. Qui scende la lacrimuccia napoletana, per me un capolavoro ancora ai nostri giorni, il platform per eccellenza su hardware Sega. Stiamo parlando nel novembre del 90, in un periodo in cui i punti di riferimento del genere erano Super Mario Bros. 2 per NES del 1988 e il contemporaneo Super Mario World, appunto, del novembre 90, uscito in bundle con la nascita del, del Super Famicom. Che poi ha detto fra noi Duval e basta con sto Mario, insomma. Stiamo parlando di Castle of Illusion starring Mickey Mouse, conosciuto in Giappone come I Love Mickey Mouse Great Mysterious Castle Adventure, è sviluppato internamente da Sega of Japan. È il primo della serie Illusion, che poi darà alla luce altri giochi forse meno riusciti ma altrettanto rifiniti come Land of Illusion, World of Illusion e Legend of Illusion, giochi usciti per le diverse piattaforme di quella che una volta era chiamata la grande S. Ma la trama, ma ha dato anche il via a Illusion. Sì, certo. Illusion. È proprio quello, sì. Ovviamente. La trama è semplicissima. Minnie è stata rapita da chi è un po' la novità. L'idea originalissima della strega Mizrabel, non Gamba di Legno, che l'ha sequestrata per rubarle la giovinezza. Ogni mondo di gioco è un suo universo fantastico a tema. Si parte con la foresta incantata, poi il mondo dei balocchi, eccetera. Nel gioco è possibile saltare a sederate sui nemici o tirargli addosso le mele raccolte per strada. Una volta collezionate le 7 gemme, una per ogni boss di fine mondo sconfitto, sarà possibile accedere al mondo finale nel quale sfidare la perfida strega. Fra le varie iterazioni, ricordiamo quella ridisegnata per Master System, giusto Alex? Con alcune differenze e mondi diversi, e quella per Game Gear, leggermente rimaneggiata, che orgogliosamente possiedo tuttora, chiusa in un bel cassetto della cameretta. E qui tocca fare filmato pure di questo, insomma. Fu pubblicato anche nel 1998 in Giappone come parte di una raccolta per Saturn. Oggigiorno il suo seguito morale è Disney Epic Mickey, The Power of Illusion per Nintendo 3DS. Cosa dirvi di questo gioco? Capolavoro in senso assoluto e titolo da lacrimuccia per il qui presente Jones. Ricordo con affetto di averlo giocato a casa dell'amichetto castrense che possedeva il Mega Drive quando io avevo solo il NES e il Commodore 16. Tristezza. E una grafica così me la potevo sognare. No, infatti, graficamente da, cioè, per l'epoca, ma pure i colori, l'uso dei colori. L'unica cosa che posso dire è che uccidere a culate i nemici non è proprio il massimo. No, forse l'unica cosa è il frame rate, che è un po' ridicolo, però, cioè, sì. Delle animazioni, non del gioco. Ma no, pure lo scorrimento, io, cioè, sono vedendo un filmato, ovviamente. Forse il filmato. Forse può essere anche il filmato, hai ragione, sì. Però le musiche, poi, che cambiavano più e più volte all'interno dello stesso mondo. Infatti, spero che il regista di turno possa farvi godere di tali meraviglie in sottofondo. Sono io, faccio tutto io stavolta. È un gioco che fatto in casa. Oggi anche in emulazione non è per nulla scontato e semplice, anzi è abbastanza impegnativo in alcuni versanti e comunque sempre stimolante per via della sua giocabilità e dei suoi universi a tema coloratissimi. Guardatevi il video che vi allego nelle note e cercate di reperirlo in qualche modo, insomma, per fare un tuffo nell'anti Mario per eccellenza, a cavallo degli 8, fra gli 8 e i 16 bit. Ah, bello, bello, visivamente è veramente un gran lavoro, ma proprio artisticamente, cioè, c'è un lavoro dietro, ma al di là delle potenzialità della macchina. Io sto vedendo la versione per Mega Drive. Mega Drive è quella migliore. Anche detto Genesis, ma veramente, veramente bello. Mazza, poi considerato che per me i platform sono probabilmente il videogioco per eccellenza per certi versi, ma l'unica tipologia di giochi ai quali io proprio non ho mai, quasi mai giocato. Quindi, cioè, poi le musiche, cioè, mi metto a sottolinearle ulteriormente, perché è uno dei pochi giochi per i quali, dopo quanti sono passati 20 anni, passa, cioè, ricordo perfettamente, le riascolto con molto piacere, perché sono entrate a loro tempo nel cervello. Ok, va bene. Alex, tu c'hai qualche ricordo, qualcosa da dire in merito? No, commento? Allora, Questo l'ho visto solo veramente da lontano e devo dire che allora non, per vari motivi non consideravo Disney come un qualcosa che potesse creare dei giochi interessanti. Ma adesso hai cambiato idea? Adesso devo dire che riguardandolo ha delle cose molto interessanti e molto molto carino effettivamente. Prima di Super Mario World. Esatto, esatto, cioè, nel senso... O comunque contemporaneamente, sì. Perché diciamolo, Super Mario ha anche rotto le palle. Quello che ho detto io prima, sì, ma... Però vabbè, sai che ci siamo, praticamente metà del nostro pubblico ci ha abbandonato. Ma se ci fate caso, infatti, tutto il discorso degli Epic Mickey di oggigiorno, il discorso è nato proprio sulla scia di quel grande titolo, perché molti ricordano quel titolo come un degno avversario del filone Nintendo. Quindi si è voluto riprendere un po'... i nostalgici dalle orecchie, per dire: guardate, noi siamo in grado di rifare un giocone con protagonista Mickey Mouse, proprio come all'epoca si fece su Mega Drive. Capito? Va bene. Allora, a questo punto, questo sono più o meno i videogiochi che avreste trovato, anche se poi avremmo magari lo speciale di Natale del prossimo anno. Tanto saranno le 64 stagioni di Archeologia Videoludica, parleremo anche di quali console, o quali computer, o quali macchine avreste trovato. Non ci sono i regali, non ci sono i regali, non ci sono i regali, non ci sono i regali. Aspetta, aspetta, stai calmo. Cioè, regali. C'è ancora Natale. Metà della trasmissione. Ma siamo solo a metà, no? Basta, grossa, dai. Oh. Devo andare a fare recupere oggi. Vabbè, ragazzi, vi interrompo adesso perché mi avete stufato. Ora è il momento di parlare di musica. In Archeologia Videoludica c'è sempre un pezzo musicale. Molto spesso è stato fatto da Andrea Milana. Questa volta Andrea Milana ha dato di matto, per cui è scomparso sotto un igloo. Insomma, diciamo che tra i 55 gruppi che ci hanno spedito delle canzoni abbiamo scelto questo. Questo è il brano tratto dal primo video dei Need a Reliever, preso dal nuovo lavoro della band, che è in uscita nel 2013. Ed è prodotto grazie alla collaborazione con lo sviluppatore indipendente italiano Santa Ragione ed è l'autore dell'indie game Fotonica. Signore e signori, ecco a voi il brano di oggi, Need a Reliever. Reaching water bravery warm. interessante, molto interessante. Che palle, sì, bravo. No, no, invece questo è bello, è bello. Poi tra l'altro, insomma, questo è un fatto Milano. Gentile concessione, non l'ha fatto Milano. Allora che palle. È una persona, no, è una persona, l'artista è conosciuto da Bertoni, quindi insomma, portiamo un po' di rispetto al nostro amico, grazie. Noi siamo soltanto pro Milano. Del brano. Non so, ma Milano se n'è andato. Se n'è andato, cioè, purtroppo. Insomma, diciamo, non è che l'abbiamo cacciato, specifichiamo. Milano ci ha abbandonato, prima ci ha sedotti, ci ha messo incinta e poi ci ha abbandonato. Quindi sappiatelo, perché sono cose brutte che è giusto che. E a questo punto lo speciale di Natale di Kits and Google. Bell, jingle bell, jingle jingle bell. Non sentite una canzoncina dentro i vostri cuoricini? Non sentite uno strano odore fognario provenire dalle vostre belle magioni? Bene, questo è il vostro babbo fecale che giunge a donarvi doni sempre più brutti, doni che vi faranno diventare nemici. Beh. Allora, io innanzitutto o quello che se l'aveste regalate al suo tempo, sicuramente avreste interrotto delle amicizie. Esatto, ma potete anche ancora farlo se volete una persona che odiate o che non volete più vedere, potete dare questi giochi. Allora, io ho scelto per ognuno di voi della nostra famiglia, vi donerò un gioco, così mi odierete ancora di più. Allora, innanzitutto a Roberto, che adesso starà sentendo la puntata da qualche parte, visto che lui è un po' l'uomo d'acciaio, quello che vuole fare tutto, vuole fare fusioni, distruzioni di massa, lui poi ingloba. Poi non capisce più niente, però ingloba. Allora gli vorrei regalare una copia di Superman 64, un gioco stupenderrimo della, appunto, Nintendo, che io ebbi il piacere di prendere, quindi non è per odio, di comprare, di provare e di riportare dopo 3 giorni al negozio. Una cosa bellissima. Metteremo sicuramente i link di questo gioco della Titus, questo stupenderrimo gioco in cui spesso Superman finiva incastrato nei pavimenti o cose del genere. È per Nintendo 64. Nintendo 64, sì, ma non è la colpa, non è di Nintendo 64. Bello. Che era programmato. Alex, tu lo sai qual era la particolarità del Nintendo 64, no? Che fu strapompata, super pubblicizzata e poi andava a 16 fotogrammi al secondo, no? Sì, che c'aveva. Io mi ricordo che l'Nintendo 64, per dare l'impressione di avere una maggiore risoluzione, in realtà shiftava i pixel, per cui diventa tutto un po' appannato. Ma al di là di quello, è che veniva millantato sto fatto, c'era il processore un processore della Silicon Graphics dentro, no? Processore grafico Silicon Graphics, e quindi tutti dicevano me coglioni, allora questo deve essere la paura. Poi in realtà andavi a giocare, i giochi andavano a 15 fotogrammi al secondo. Marco dice non è vero, ma insomma io ho avuto modo di vederlo più volte anche dal vivo, insomma io mi ricordo anche i giochi di macchine, capito, che è la peggior tipologia per avere pochi fotogrammi al secondo. E praticamente questo gioco di Superman, Marco, bellissimo, tutto in 3D, in cui Superman ovviamente, perché allarga le braccia quando è per girano per darsi lo slancio. Allora, immaginate che Superman ovviamente non potevano fare un Superman che era indistruttibile, perché sennò se il gioco finiva subito, certo. Quindi si sono inventati che doveva andare in un mondo virtuale dove su Lois Lane, il fotografo del merda, quello ragazzino che venivano rapiti da Lex Luthor e buttati dentro questo punto mondo virtuale, e lui doveva andare nel mondo virtuale a salvarli. Quindi ovviamente aveva i poteri limitati, cioè doveva prendere le power up sparsi per avere determinati poteri, cioè una cagata in mano, è bestiale, ma pure brutto visivamente, esatto, tutto squadrettato ovviamente con, ecco, le macchine che rimangono appese nel vuoto, cioè è bellissimo. E ovviamente l'effetto nebbia che ha salvato milioni e milioni di console, sta cosa. L'effetto nebbia salva ancora milioni e milioni di console, esatto, non si vede il palazzo di fronte. Ma poi perché deve passare attraverso dei cerchi? Perché per giustificarlo, se no dice che questo vola, ci arriva in 2 secondi, invece no. Deve fare un percorso, deve fare un percorso. Se gioco si chiamava Superman poteva anche essere divertente come gioco. Sì, probabilmente è quello. Cazzi Imperio. Le avventure di Cazzi Imperio e il super uomo. Sì, no, cioè, ma cioè, che tristezza, la strada bidimensionale. Cioè, guarda quando comincia a lanciare in giro le macchine, che praticamente ci sono tre palazzi più uguali che sembrano la bicocca, e poi la strada è disegnata. Ma questo perché è un mondo virtuale. Quello è perché il mondo è virtuale. Google Maps che non fa il refresh della risoluzione. Esatto. Vabbè, ragazzi, questo è il primo gioco. Hai regalato Roberto, però posso dire la mia, ma Nintendo 64 merda. Chi se ne frega? Sì, ma io è sempre stata una merda di console. Non dire cazzare, dai, Marco, sono delle belle cose. Ti regalo indietro. E mica gli Alex, gli ha dato a Roberto. Ah, vero, Roberto. Allora, questa... a te Peppe invece voglio, grazie, perché tu ovviamente sei sempre nel mio cuore, voglio darti il peggior gioco mai uscito, a parte E.T., che quello sarà un altro regalo, Big Rigs Over the Racing, che pensa, ma su che... Metacritic ha avuto il voto di 8. Dice, mazza, cazzo, dicevo, 8. Ammazza 8, 8, 8 però 8 su 100, cioè. 8 su 10 o 8 su 100? 8 su 100, 8 su 100, 8 su 1000. Adesso stiamo vedendo un video in cui verranno anche presentati i loro fantastici bug. È un gioco di corse tra camions. Bello, bello. Non c'è la strada? No, la strada c'è, cioè, passato attraverso sta... tutto. Ma perché è passato attraverso l'albero? Anche attraverso il ponte. No. E poi l'acqua è bianca. Passa sotto il pavimento. Ma che cos'è? Che cos'è? Che no, questo, signori amici, spettatori, ascoltatori, guarda, se guarda, guarda che resta del, ma già è tanto che riesce a restare stabile nel a livello del terreno. Palazzi. Ma passa attraverso la esatto. No, vabbè, qui questo qua si sono proprio dimenticati di mettere pezzi di programma, cioè nel senso, e l'hanno fatto uscire sta cosa. Scusa, certo. Scusa, per cosa era questo? No, nota il tempo che esce fuori dal suo rettangolo in alto a sinistra. Vabbè, perché stavo cominciando a dire com'è che Nintendo ha fatto passare sto gioco. No, è per PC, No, questo è per PC. Ovviamente per PC c'era. Grazie, grazie. Che usciva veramente. Penso tutto. Questa casa è la stessa che ha fatto un altro gioco che è recentissimo, però l'ho dedicato a Pizzi perché lui mi piace. Ma poi dopo adesso lo vediamo. È la stessa società. Ma sono i stessi? Sì, sì. No, vabbè, allora sono proprio loro che. Ma da quando è sto gioco? Questo qui? Oddio, non sai che non mi ricordo. Graficamente, insomma, sembra meno un gioco di una decina d'anni fa. Sì, infatti, più o meno, ma forse anche di più. No, una decina d'anni fa dovrebbe essere. Alex, neanche io e te avremmo saputo. Poi sale sulle montagne. È meraviglioso. Cazzo, sale in verticale sulle montagne. No, ma rimane appiccicato poi. Certo, no. Guarda, va fuori il mondo, va fuori del mondo, vedi? Certo. No, cioè io bello, ragazzi, bello. Andate a vedere, no, dell'episodio, cercatelo, come si chiama sto stato? Big Rigs. Big Rigs, andatelo a vedere perché c'è il video e l'abbiamo linkato, guardatelo perché io penso spendete sti 3 minuti, ma io veramente una cosa del genere non l'ho mai, veramente mai vista. Bravo Marco, questo ci è piaciuto. Andiamo al prossimo Peppe, regalo. Sei contento del regalo? Grazie, soprattutto anche perché il PC non ce l'ho, quindi potrò te lo dovrei comprare. Però puoi emularlo. Lo su puoi emulare, c'è sta crossover, c'è è sta... vero, è vero, è vero. Allora, invece Andrea Milana che ci ha lasciato, gli regalerei il mitico E.T. disseppellito dal Nevada, perché appunto se lo merita. Abbiamo già parlato da proprio i peggiori giochi della è considerato il peggior gioco della storia, anche se secondo me Big Rigs sa batte, però sa vince secondo me. Diciamo che E.T. c'ha la scusante del fatto che è un gioco di 30 anni, cioè vuoi dire quando fatto scinfretta, programmato su una console che c'aveva 3 bit a sbafo, insomma, però cioè vuoi dire quello là è un gioco su PC, c'è, cioè, meno giustificabile sta cosa. No, comunque assolutamente, cioè la schermata di E.T. di presentazione su Atari 2006 è una delle cose più brutte che siano mai state. Come faccio di E.T. che sembra una scimmia marcia, sì, con quel colore giallo cagarella tipico, insomma, della... perché non c'era il marrone. Alex, tu ci hai mai giocato a E.T. Atari 2006? Sì, stavo, ero immerso nel guardare E.T. È veramente brutto. Quasi peggio di Big Rigs. Ma sono due epoche diverse. Sono passati 20 anni tra uno e l'altro, probabilmente. A questo punto meglio Big Rigs, scusa. No, non lo so, aspetta. Non lo so. Ognuno ha al suo valore di trash. Il suo valore di bruttezza per ragioni diverse. Poi, cioè, guardate, cioè, i scenari di sto gioco non sono comprensibili da quelli detti. Al di là del fatto che poi, perché in un certo accelera? È perché quella è l'accelera, lui c'ha la capacità di correre più veloce. No, e poi è velocizzato il filmato. Ah, vabbè. E ok, Andrea Milana, becca adesso gioco. E noi abbiamo parlato già 50 volte adesso gioco. Penso chiunque che parli di videogiochi, della storia dei videogiochi, ha parlato almeno una volta del fatto che sto gioco è stato seppellito nel Nevada. Poi c'è un altro regalo per Alex, vedo qua. Sì, un regalo per te, Alex, perché tu sei un po' aspetta. L'uomo di ferro della situazione, l'uomo d'acciaio dell'uomo di ferro della situazione. Tutti uomini di ferro. Lui è di ferro, però. E quindi ti voglio regalare l'uomo de latta. Iron Man, il tie-in del gioco, del film, scusa, il gioco tie-in del film omonimo che è uscito qualche anno fa. No, era multipiattaforma. Ah. Questo adesso però abbiamo un gameplay per il PC. Il PC. Sega, tra l'altro. Quindi, guardate, lo stai vedendo il video? Sto guardando adesso, c'è sì. Ma beh, sembra fatta abbastanza bene fino adesso. Certo, è fatto benissimo. Parlacene, dai. Allora, praticamente qui c'è Iron Man, appunto, si ripercorre una grande linea, anche qua a cazzo di cane, la storia del film. Io giocai la demo per PS3, mi ricordo. Ma una cagata in mano, guarda. Cioè, io non ve lo posso descrivere, dovete giocarvi, cioè di una noia mortale. Cioè, proprio. No, guardatelo. Cioè, graficamente, anche se è brutto, perché comunque rispetto a quello che c'era in giro è brutto. Sì. Graficamente, comunque, potrebbe anche reggere, tra virgolette, però è no, assolutamente no. Adesso, se riusciamo a caricare il video, possiamo anche commentarlo. Questo video che va a 2 ore, quindi possiamo. Attenzione, che parte della cutscene, vedi? Ah, bello, mazza. Questo che cos'è? È una magione che non so perché deve distruggere dei satelliti qui in questo. Alex, sei contento? Ma io sì, ma sai che a Cavaldonato non si sputa in bocca, per cui ci piace. Grazie, grazie, sono onorato. Devo dire che secondo me fa molto meno schifo di E.T. e di quella lì, certo, dei cani. E di quell'altro, sì, sì. Per cui quello dei cani sicuramente. Oh, c'è anche un gioco per me, attenzione. Attenzione. Cioè, questo non è storico, perché è uscito soltanto pochi giorni fa. Però, visto che te ne piacciono le Zombas, ti regalo il The War Z. The War Z, che praticamente è la stessa, sono gli stessi che hanno fatto Big Rigs. E infatti, il gioco è stato recentemente ritirato da Steam. Eh sì, perché non solo è pieno di bug, è un pre-alpha praticamente. Sì, non è praticamente ancora in fase di sviluppo. Questi l'hanno messo l'hanno in vendita, spacciato per un gioco finito, quindi 14 euro. E l'hanno messo lì. Praticamente il problema non è tanto il fatto che. Che problemi aveva? Di tutto, praticamente pare che praticamente è ingiocabile, assolutamente ingiocabile. Ma il problema non è che Steam nota come ritirata. Cambiano le calcola che quando viene ucciso, cioè devi aspettare 4 ore per il respawn. Anche se hai pagato, Questa è una delle cose per dire. Quindi cioè una zozzeria. Poi c'è sta gente, quando cominci hai una torcia, quindi devi ammazzare la gente a torciate. Poi ovviamente è pieno di gente stronza che va in giro magari col fucile a ammazzare tutti quelli che incontrano, quindi c'è proprio pieno di bastardi. E è bellissimo, no, ma lo dicono proprio tecnicamente, c'è un sacco di problemi, c'è bug aiuto. Tant'è che il fatto che poi Steam lo abbia ritirato, in realtà non è manco successo. Se quelli che se lo sono comprato, ma che è? Che sta a fare? Sta a correre. Alex, stai dicendo? No, nel senso, mi sembrava che cambiassero le texture. Sì, cambiano, perché per qualche motivo le texture sono le texture con le ombre degli alberi. E tanto che gli alberi hanno continui pop-up e pop-in, praticamente le ombre continuano a cambiare. Per cui dovunque tu ti volti, le texture continuano a cambiare. È veramente brutto. Ma secondo me il camion è ancora peggio. Sì, quella vince, beh, quella 8 su 100, insomma. No, ma questo qui, il video che abbiamo messo, è Alpha Gameplay. Però in realtà quello che è uscito è lo stesso, cioè praticamente è una versione incompletissima. No, ma proprio pare che ci siano stati proprio, no, polemiche di più, cioè proprio le biastime. Eh beh, ma te credo, insomma. Quindi vabbè, insomma, vabbè, io sei contento? Sì, grazie, grazie. È un gioco che funziona male, forse è il più bel regalo per riuscire a farsi odiare, insomma. Poi la prossima volta ti regalo anch'io qualcosa. Che è sta cosa? una cosa bruttissima. No, poi ho un regalo anche per Saso. A Saso invece di che lui è di dietrologia videoludica, ma glielo facciamo lo stesso il regalo. Gli regalo Pac-Man del 2006, non dell'anno 2006, ma non 2006, c'è il video, ma proprio del vabbè, basta, ce l'abbiamo visto 50.000 volte, quello lo conosciamo, è quello con l'effetto strobo, veramente è bellissimo. Mentre per Biggio, il nostro Big Gay, gli regalo Postal 3, che ricordiamo Biggio Stefano di Retrocast e che fa dietrologia videoludica con bla bla bla. Gli regalo bel Postal 3. Postal 3 è stupendo, cioè praticamente è un gioco che non è stato, tra l'altro, che è il seguito di Postal e Postal 2. È il seguito dei due Postal, che i due Postal erano della Running with Scissor, invece questa qui è della Kella, praticamente come se la classica la Bethesda che dà all'Obsidian, per dire, e quindi a una casa russa gli ha fatto fare questo gioco che è graficamente ovviamente superiore a tutti quanti ed è in 3D, tra l'altro, anche perché quindi, il Postal, insomma, vabbè. Soltanto è che di una. Hanno cercato di essere beceri come i precedenti, però qui è veramente una cosa inutile. A parte ci sono gatti, adesso non c'è l'audio, però se voi mettete l'audio è fantastico. Ci sono gatti che miau, che fanno così ovunque, perché possono essere utilizzati come, come silenziatore per le armi, oppure ci puoi mettere una bomba, non so se nel sedere o questa cosa, calci il gatto. Un gatto, perché scusa? Oppure puoi utilizzarlo come bomba, gli metti una bomba dentro e le fai esplodere, cioè, cosa bellissima. E poi proprio andare in giro a pisciare sulle cose, persone. Lo spargi di benzina e gli dai fuoco. Ah, certo, ma quello non è prima, non so se lo puoi fare anche qui. Comunque, è veramente un gioco inutile. Questo sembra che abbia preso 23 su 100, una cosa del genere, ma anche questo è stato veramente cassato. Doveva uscire in diverse versioni, quindi oltre alla PC doveva uscire anche la versione per Linux, mi sembra, addirittura Mac, ma poi alla fine non è uscito perché ha fatto talmente cagare che non hanno avuto i soldi per sta prendendo sviluppare. A calci uno che è arrestato adesso, abbadilate, attenzione, ecco la benzina, eccola c'è la benzina, ecco, vedi. E c'è quella che guarda, sta lì che guarda, gli ha dato fuoco, quella che poi scappa, certo, perché sennò poi si prende fuoco pure lei, insomma, è normale, però può spegnere a pisciare, vedi? No, perché c'è un po' di umanità. È ridicolo, cioè, in realtà è quello che facevi su Postal, però sugli altri, esatto. Forse su Postal c'era quasi più senso, insomma, adesso sta pisciando addosso ai passanti, è bellissimo. Però poi i passanti tirano fuori i fucili, è normale, perché lì sono tutti armati, capito? Vedi? Ah, questa si è messa a piangere. Invece quell'altra c'ha il fucile a pompa. Vabbè, io penso che veramente una tristezza unica. La bruttezza di sto gioco, penso che a chi l'hai regalato questo? Questo l'ho regalato a Biggio, questo che gli piace. Ma lui piace, sì. Ho cercato di un gioco di ruolo, avevo pensato qualcosa per dare sfogo a Gothic sborro, 3, per dire, sì, per fargli creare uno sborro, mi riferivo, però siccome che lì non si può dare il nome al personaggio, non glielo regalo. Sono glielo voluto regalare Gothic 3, uno dei giochi più buggati della storia, tuttora. Beh, infatti, secondo me, ma sarei aspettato, insomma, una cosa del genere. Tu, Alex, sto gioco apposta al Gothic 3. Ah, guarda, faccio una cosa: Gothic 3. Sono anche delle cazzine. Poi Break up the fight. Interrompi la cosa. Lo sai come lo fa? Mettendo una bomba in un gatto e tirandogli addosso. Vedi? Prende il gatto, mette una bomba in culo. No? Sì, in culo. Ma dai, cosa bellissima. Poi la tira addosso alla persona. E ovviamente rimane attaccata al braccio. Questo sarebbe un poliziotto. Sì, e poi boom, esplode. Vedi? Vabbè, cioè, veramente non. È di una beceratezza unica. Gothic 3 invece lo regalo al nostro Marrone, che lui stava impegnato a giocare a Skyrim ultimamente, quindi potrà apprezzare anche i bug di Gothic 3, quindi io lo regalo. Vabbè, che volete, fa un giro dei commenti, Alex, Peppe? Voi che cosa mi regalereste, i vostri peggiori? Bravo, perché poi in realtà mo adesso non mi viene in mente. Io ho un gioco che ho preso un pensierino per tutti un po'. Bravo, dai. Posso? Ho comprato uguale a tutti, così non vi scannate, non ci scanniamo. Volevo fare questo bellissimo regalo, questo gioco chiamato Replay, che ho preso così un po'. Vuoi dire Replay? Casualmente nel cestone del negozio giapponese. Ma quello è un gioco porno. È un gioco che è stato pubblicato, poi ritirato. Un gioco allegrissimo, guardate gli screenshot, anche la copertina. Vabbè, dove si deve stuprare le giovani studenti. Perché parla di stupro, di stupro. Voi amabilmente andate a stuprare la gente, come nella cultura giapponese. Ma che sette asta qui? Avrà una quattordicesima. Infatti. Pensate che la trama parla del giovane Aoi Kiryu, di Kimura Masaya, che se ne va stuprando la gente, e poi incarcerato, viene liberato perché è figlio di un importante politico, e comincia allegramente a girare per le ambientazioni a importunare a destra e a manca. Bello, tante controversie legali per tutti, un gioco che si è fatto notare ben 3 anni dopo la sua uscita, quindi per quanto se l'erano filato, però insomma spero che vi divertiate. Ma solo perché ne hanno parlato male, sono ma che tette enorme, ragazzi. Poi il fantastico bagno, commento, cioè, tecnico è veramente meraviglioso. C'è quella che si fa il bidet lì, sì, bello, ma non ci si può fare il bidet di traverso, cioè uno è stato trasversale al bidet. Questa è praticamente con una ricca sezione extra, fra l'altro, se guardate. Stavo guardando gli extra, appunto, queste tettone abnorme. Vabbè, ma proprio il buon gusto natalizio. La posizione del bidet è fantastica. Lo giocherò la notte del 24. Interessantissimo, la posizione del bidet è veramente molto interessante. Ma complimenti ai giapponesi che sempre non perdono mai occasione, insomma, per dimostrare quanto stanno bene. Questa cioè, sta male perché cioè, queste dette sono dei tumori, cioè, in realtà. Sono delle metastasi. Tumori simmetrici, so che... effettivamente. Eh? Beh, certo, non possono essere identiche, sennò sono finte dopo. Ah. No, no, però scusatemi, voglio leggere da Wikipedia i due possibili finali di questo gioco. Ah, sì, cioè, spoileriamo, cioè, dai. Il black ending, cioè il protagonista maschile mette incinta una delle tre donne e decide di tenere il figlio. Madonna. Tuttavia muore alcuni giorni dopo cadendo sui binari del treno. Questo è il black ending. E poi c'è il red ending, cioè poco dopo aver stuprato Aoi, la ragazza accoltella il suo stupratore. Io non so dire stupratore, scusa. Più e più volte uccidendolo. Quindi sono i due finali. Spoiler, vi ho spoilerato. Così so, adesso se lo volevate giocare, cavolo, dico, ma finisce questo gioco. Se lo volete, è vero, no, fare anche un regalo di Natale. Muore in ogni caso, va bene. No, di che stavi dicendo? Che se lo stupratore muore, va bene. Ah, vabbè, certo, è lecito. No, dicevo, per regalo di Natale potevamo fare come spoiler i maggiori giochi che sono usciti nelle ultime due settimane. Anche sì, no, vabbè, in realtà hai spoilerato un gioco che insomma suppongo che tutti vogliamo giocare adesso in poi. Va bene, ragazzi, questo è, insomma, sarà veramente una puntatina un po' così, giusto per stare un po' insieme, per cazzeggiare un pochino, ripercorrendo sempre i giochi. Abbiamo voluto fare questo specialino proprio anche per farci gli auguri, per chiudere insomma questo 2012, che per archeologia videoludica è stato un bell'anno tutto sommato, anzi un anno insomma ricco di soddisfazioni, e per farci appunto gli auguri. A questo punto in teoria ci dovrebbe essere la frase storica del professor Jones, che ci lascia sempre una delle perle videoludiche, ma in realtà non quest'anno, anzi per questa puntata è ho ho ho buon Natale, esatto. Quindi a questo punto insomma lascio la parola a tutti voi, partendo da Alex, Beppe, poi Marco, per fare gli auguri a tutti quanti, e poi insomma chiudiamo questa trasmissione. Ci rivediamo, come abbiamo detto, già ci vediamo a gennaio con questo speciale sull'editoria videoludica. Il titolo dovrebbe essere approssimativamente Editoria videoludica ai tempi dei fosfori verdi. Questa è una cosa proprio che è un titolo che ci portiamo avanti da 6 mesi, ci abbiamo fatto anche le foto per poter fare una copertina degna. Io vi auguro buon Natale a tutti quanti, soprattutto passate buone feste, sia una buona fine di anno, ma soprattutto iniziate un nuovo anno all'insegna del videogioco e soprattutto all'insegna di archeologia videoludica e tutti i programmi di Italian Podcast Network. Alex, è bellissimo perché non ho capito un cazzo di quello che avete detto, visto che c'è tanto lag. Auguro a tutti quanti buon Natale, buon anno, e da parte mia, da parte di Suor Bethesda, e da parte di Ermignottone e di tutti quanti gli altri certo. Personaggi. Ciao ragazzi. Peppe? Bene, auguro a tutti quanti un buon scartamento dei vostri giochi preferiti, tranne tu, Simone, che sei vecchio, quindi non riceverai sicuramente nessun gioco. Ma lui riprende digitali. Te lo fai tu? No, in realtà io li prendo dal PlayStation Network i giochi. Quindi... che sei troppo avanti, oh. Troppo. Lui troppo non avanti. Scarta più. Quindi buon Natale, ci risentiamo su questa frequenza l'anno prossimo. Ciao! Marco? Io auguro a tutti quanti un felice 2013 e un felice Natale, ma solo se ci ascoltate. Quindi, altrimenti cazzi vostri. Ok. Ciao, buon Natale a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Bareggio. 5 ottobre 1988 d.C. Credo in un solo C64, padre onnipotente, creatore del Ninja e del Seuk, di tutti i programmi, visibili ed invisibili. Credo in un solo signore, Commodore Amiga, non unigenito figlio di Dio, nato dal padre prima di tutti i secoli. C64 da Dio, C64 da luce, C64 vero da C64 vero, generato, non creato, della stessa sostanza del padre. Per mezzo di lui tutti i programmi sono stati creati, per noi giocatori e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e per opera del linguaggio macchina si è incarnato del seno della Vergine Commodore e si è fatto computer. Fu crocifisso per noi sotto Atari ST. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è resuscitato secondo le scritture. È salito al cielo. Siede alla destra del Padre 64. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare gli MSX e gli Spectrum. Ed il suo regno non avrà fine. Credo nel linguaggio macchina, che ECI-64 dà la vita. E procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre ed il Figlio adorato e glorificato. E ha parlato per mezzo dei polemici. Credo nella Commodore Club, una santa, cattolica e apostolica. Processo un solo Basic per il perdono degli MS-DOS. Aspetto la risurrezione degli Amstrad e la vita dei giochi che verranno. Amen. A morte i polemici. De Alex. PS. Programmo sull'MSX e gioco sul Sega. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.